l'acqua che scende da sopra, piano piano va nei contenitori, si riempie, va, scende ancora più giù, è un riciclo, ma a me piace moltissimo. Salino quindi veramente bene, ma me la fai impedire un paio di là? Cioè, è una cosa che tiri così e basta, ma è già carino anche questo. Allora, se tu vai a Porto Torre, c'è una pizzeria, c'è vicino alla cassa, questo cosa che toglie i fumi, cambia colori e toglie questi vapori profumati, non so cosa sia esattamente, però è bellino lo stesso, tipo la fontanella e toglie dei fumi. C'era anche la 50, guarda, la comprano sempre i cinesi, copri liquido a parte, lo metti dentro, poi quando si consuma devi riempire, a me non piace già. Io c'ho l'altro invece che ogni 8 secondi c'è la fruttata e c'è il profumo, ma ho eliminato anche quello, l'ho messo da parte e sto usando quelle bacchettine tipo incenso, cioè ma è bestiale, guarda, quando ci consuma tira sopra il profumo in casa e boh, una volta di tanto lo metto, non è che metto sempre la mattina presto, quando per esempio pulisci in terra, sente un po' di odore parecchino, allora metti quello lì di incenso e ti lascia un bel odore gradevole. Tony, quell'incenso lì dicono che sono cancerugini, comunque io l'ho avuto quello che hai avuto tu, che toglie i profumi eccetera eccetera, l'ho eliminato perché ogni volta che entravo in bagno mi faceva prendere gli spaventi, cazzo, faceva questo soffio di colpo, cavolo, e non me l'aspettavo, un bel di volte mi sono spaventato. Aiuta! Sì, ho detto faccio, e quella è bruttata, avanti e giù. Ok, ma una cosa del genere, col profumo eccetera ce l'aveva, una volta, qualche anno fa ce l'aveva, mio cognato in campagna, ma quando attaccava questa cosa, a me magari non mi ha fatto niente, la verità, però c'erano delle persone di famiglia, se sonino, che gli ha provocato un raffreddore enorme, proprio lì nel momento, con questi profumi così. In 448 hanno incominciato a salutire tutti quanti ed erano esattamente mia sorella, poi mio cognato e il figlio di mio cognato, che hanno incominciato a salutire con questa affare qua. Beh, sono dovuti uscire fuori dal locale perché sennò non potevano respirare, Gianni. All'incenso? Ma non lo so che profumo era. Era un profumo strano che non ho mai capito. No, state allergici, niente di strano, quel tipo di profumo. Io sono 14 anni che li uso e uso sempre gli stessi. E a me non mi hanno mai fatto male. Eh beh, certo, dipende dalle persone, dipende da quelle persone che magari sono troppo deboli, non lo so. Uno può avere anche qualche piccolo difetto nella gola, che so io, oppure nella faringe, boh, e ne viene questo raffreddore, proprio raffreddore nel vero senso della parola, ossia. In pochi minuti, nel giro di 3, 4, 5 minuti massimo, hanno incominciato a sentire e hanno dovuto cambiare anche il fazzoletto, pensa un po', vabbè, usavano fazzoletti di quelli di carta, vai, Tony. No, io la verità, ogni mattina, perché sono intasato da come dormi eccetera, la mattina tiro uno o due starnuti e insomma e consumo 4-5 di fazzolettini e poi mi basta, finito. E tiro io, sono una scorta di fazzolettini, compro 3-4 pacchi, ogni pacco ce ne sono 30 pacchetti di fazzolettini, ogni pacchetto di fazzolettini ce ne sono 10, non ti conto quanto ne ho, ma la scorta ce l'ho sempre, non so mai, me ne porto appresso nel forziere quando esco o in moto in macchina. Però ripeto, perché qualsiasi cosa mi serve ce l'ho, ho pulimi gli occhiali, fazzolettini e per tanti altri motivi, pulimi la mano eccetera. Sì, e beh certo, ma quelli ce l'hanno un po' tutti, diciamo, no, io la verità li ho usati in questi 2 anni, li ho usati per un po' di tempo perché c'era il discorso del Covid, no? Però io ho quasi sempre usato, nella mia vita ho usato sempre quelli di sofa eccetera eccetera, uno al giorno, tutti i giorni cambiato naturalmente, non è che puoi tenere il fazzoletto sporco da un giorno all'altro, ci mancherebbe, anche se a dire la verità io lo uso molto poco, lo uso molto molto poco, se prende fai girare, vai. E comunque quelli che in carta sono molto igienici, perché il soffio in naso poi lo butti e ce l'hai sempre nuovo il fazzolettino, io sto fatto non lo sopporto. Avanti Gianni. Io ci ho rotto lo scotch per non sbagliare, macchina dietro, se se devo fare qualche lavoro, qualche cosa, uso lo scotto e se c'ho anche l'acqua per lavarmi il bidone. E niente, e i fazzoletti li usiamo quelli umidificati e poi da quando li ho finiti non li ho più comprati. E perché non li hai comprati? Perché me ne dimentica Giuseppe. Ah, io ce l'ho scorta, visto in macchina in casa, però se visco in macchina, quello che ho in casa lo metto in macchina e poi me ne compro un altro paio. Sono fatto sempre così io. No, ma anche io fazzolettini normali ne ho anche a casa, a pacchi, però quelli umidificati, che erano meno profumati, dopo che ti lavavi le mani, ti asciugavi, ti pressavi quello lì e ti lasciava le mani profumate, capito? Io c'ho quello lì, infatti, tanto in macchina ce l'ho, e in casa, ma, cioè, in casa infatti c'era un altro pacco ancora nuovo, quando finisco quello in macchina, allora metterò l'altro, però il male è che d'estate questi fazzolettini, se lo chiudi male, si asciugano e non servono più, uno dei pacchi della giornata fatto che è avanti giù. Ok, beh sì, indubbiamente sono più igienici probabilmente del fazzoletto, però se il fazzoletto uno se lo cambia tutti i giorni va bene, tanto più uno come me che ne usa pochissimo, la verità. Il fazzoletto è come le calze, no? Ognuno si deve cambiare tutti i giorni, sia il fazzoletto che le calze almeno. Poi l'estate naturalmente anche la magliettina di sotto, quella che io la uso sempre, oltre alla maglia che di sopra, io uso sempre la magliettina di sotto, anche perché mi aiuta quando, per dire, non so, quando sudo, anziché bagnarmi molto la maglietta di sopra, mi bagno la maglietta di sotto e poi quando arrivo a casa me la posso cambiare in estate, anche uno la mattina, uno la sera, e va bene così. O Tony? Anche me, io la maglietta uso sempre la maglietta d'estate, su questo caldo che c'è, io metto doppia maglietta quando uso la moto, ma non lo scooterone, l'altra moto che cammina molto di più, quando comincia ad andare 180-200, insomma ti arriva un pomone e ti va di buco, e allora no, io l'altra non la uso, quando uso quella lì soltanto quando voglio scorazzare andare un po' fuori, perché per città è troppo pesante, e Suzuki non lo tratto. Niente, lo scooterone invece per la città va troppo bene, un bello scooterone grande, cioè. E le magliette, io la camicia non la sopporto più, prima usavo la camicia, adesso ne avevo tante camicie, adesso se ne ho 3-4 anche troppo, ho fatto uno spoglio e ne ho buttato, ho trovato un casino messo in cane, niente, maglietta va troppo bene, quella in cotone. Perché ne ho comprato qualche una ed era tipo l'estizzata, la materia pirà, buttata da parte, nuova, nuova, anche il cicotone. Sì, infatti è così, la moto, io praticamente con la moto quando ero giovane, ragazzi, ero un pochino stupido, nel senso che non anche a petto nudo ci uscivo e andavo in moto, poi infatti i dolori, poi mi sono preso l'artrosi cervicale e lombare e ogni tanto un colpo me lo prendo adesso che sono anziano, per cui no, non è consigliabile. La moto è bellissima perché a me mi è sempre piaciuta lo stesso, molto molto molto, quindi la macchina mi piaceva quando ero giovanotto, però il problema è sempre le correnti d'aria, perché quando sei giovane a queste cose non ci pensi, però poi le paghi ad una certa età, Tony. Non so, ma basta coprirsi bene, capito? Io l'altra volta mi sono messo a fare un giro di domenica con la moto grossa, mi sono messo anche, a parte le magliette, mi sono messo anche il giubbottino in pelle che usavo quando andavo in moto raduno. Ho fatto un bel giro e poi me ne sono entrato e basta. Adesso vedi, sembra così, ma c'è sempre da fare qua in campagna. Adesso mi devo cambiare il cancello, me lo metto quello in ferro. E poi, siccome mi rompe le palle, aprire il cancello, uscire con la moto, richiuderlo, mi metto il motore e me lo ha portato il collegamento, lo faccio io stesso. Sono sull'elettricista, quindi non è la prima volta che piazzo queste cose qua. E mi metto il cancello elettronico, il cancelletto. Tanto già col capocco, non è problema, è vero piazzo. Andrà bene, a Gianni riprendi. La manzonia dei biglietti. Ah! Allora il fatto è questo. Tu pensa, prendi la moto, toglierla dalla veranda, metterla poi nel giardino, posteggiare, aprire il cancello, a volte il vento me la fa richiudere, mi rompe le palline, io sono sotto sulla moto, devo mettere il cavalletto, insomma, invece tasca, c'è il pulsante, si apre il cancello, esci, poi si chiude da solo, è un'altra cosa. Ma devi aspettare che si chiuda, perché se ci sono i cani, ti muggi. No, quando faccio quel lavoro lì, rimango chiuso in casa. Tony? Dimmi tutto. Una cosa, che frequenza hanno quei cancelli lì? Perché io mi ricordo, di fronte a dove lavoravo io, no? Di fronte a bottega, c'era l'abitazione che questi avevano in questo condominio, avevano il cancello scorrevole, come c'è sempre, ancora oggi. Quando passavano le macchine, si apriva il cancello da solo, così, senza che nessuno lo stimolasse con l'oltre comando. Bastava che passasse una macchina con un certo rumore e il cancello partiva da solo. Si lo fa anche quando c'è troppo caldo, oppure quando scoppiano i petardi, tanti motivi. Sono sensori che ci sono lì, automatici sono molto, talmente sensibili. Hanno tante frequenze, ognuno cambia la frequenza, capito? Sì. Non mi ricordo se aveva una frequenza di 127 MHz o 412, non mi ricordo. Frequenze strane poi, capito? Perché quando mi hanno codificato il telecomando, ho visto dal frequenzimetro che loro hanno messo per codificarlo il telecomando. Quindi sanno, ogni cancello ha la sua frequenza. Se tu noti, mica sono tutti uguali. Anche c'è la FAC, poi c'è la cosa, come cacchio si chiama, c'hanno tanti nomi, c'hanno. Mica con il telecomando che c'è tu apri un altro cancello, no, assolutamente no. Sì, lo so che hanno ogni cancello al suo telecomando, è ovvio, questo sì. Però voglio dire, il range della frequenza di questo tipo di apertura, lo so, supponiamo il caso, da 150 MHz a 160 per dire, ecco, non lo so con quale frequenza lavorano, quello che volevo sapere se tu lo sai. No, come già detto non lo so Giulio, io te lo potrei dire domani, ma oggi no, assolutamente. E tutta la sera avevano la 27, ogni volta si schiaccia la porta si apre il cancello. Quindi la frequenza della 27 ci sono gli discorsi, che vengono telecomandati. Non è possibile. E vabbè, possono capitare, queste situazioni possono anche capitare. Riprendi già. Ho detto la frequenza della 27, ce li hanno le macchinette radiocomandate, gli elicotteri, gli aerei telecomandati, c'hanno tutti quella frequenza. Puoi disturbare se tu praticamente vai moduli quando stanno volando, li puoi far cadere. Queste apparecchiature che si usano oggi, il drone, anche quello può subire un incidente del genere. Io prima avevo la passione degli elicotteri, mi piacevano un bel, a me e a Luca del Monte, ne avevo avuto diversi, l'ultimo che ho preso era l'angusta dei carabinieri ed era grande, ma grande però bello, sono andato al quadrato e ho cominciato a farlo volare, l'ho fatto volare troppo in alto, ha perso il contatto radio, che se fa da piccolo è tutto fasciato, manco 5 minuti mi è durato, l'avevo pagato meno di là. Ci deve avere molto in alto, capito? Ci sono anche i droni stesso, dicono che sono quelli che poi se tu lo perdi e poi ritorno indietro, ma non è che mi fidi più di tanto, ma ripeto, ne avevo comprato uno e l'ho regalato a mia figlia, poi non so se lui l'ha usato, poi. No, non mi piacciono queste cose qua, un casino è. No, con gli elicotteri li ho avuto parecchi, sapevo volare, li facevo volare tranquillamente. E questo qua che mi aveva appassionato, l'ho visto in via Civitavecchia dove l'inverno, c'era l'angusta dei carabinieri, bellissimo, cavolo, grande, e no, non ne avevo mai avuto così grandi. Se ero tutto entusiasta me l'ha giubilato, detto, beh, adesso me lo compro, mi tolgo una soddisfazione. Sto guardando al quadrato, l'ho fatto volare più su di quei lampioni che ci sono, guardando a picco, stavano tutti guardando, oh, che bello, che bello, quanto l'ha pagato di rubare dei miei costi. Ah, pannato. Mamma che non ho fatto. Ma guarda, io mi ricordo un particolare, tantissimo tempo fa. Erano scesi, non so chi c'era, CP e c'era anche Raimondo, anche lui è appassionato con te, lì, che è il comandante. E siamo andati dopo una driga, c'è un campo grande, e questo mi ricordo che ha fatto partire l'elicottero, che si è andato a secca a testa, ha preso il controllo, com'è caduto? C'era un asino, è andato a finire sull'asino, ci vuole con l'asino tutti ridenti, ma ci avanti giù. Io guarda, Antonio, ho visto, cioè sono partecipato anche a voli, c'era un campo vicino per andare all'aeroporto, nel rettilineo che c'è lì, c'era una strada, si entrava dentro e lì facevano le gare e c'erano quelli che praticamente bravissimi, li facevano girare, li facevano il volo della morte, chiamavano aerei, c'era uno che era turbo addirittura, era un caccia turbo, quando accelerava, ma grande però me, quando accelerava i pantaloni ci vedevano, volavano i pantaloni che c'aveva il padrone. Tacco, come c'era, poi ha detto che non poteva farlo volare perché ci voleva la pista come quella dell'aereo per farlo volare, perché bisogna anche prendere molta rincorsa. Poi dice che sono io turbo, hai caricato a Giulio tutto il messaggio. Scusate, dai, lo ripeto, devo scendere, già è venuto qualcuno qui a casa, sono saliti per chiamarmi, infatti devo scendere giù in tavernetta. Ciao Tonino, grazie per la chiacchierata, ciao Gianni, grazie anche a te per la chiacchierata, io ascolto finalino e dopo chiudo, dai, riprendi Tonino. Ciao, giù. Buona cena, quando lo fai? Sono tu una Corea, avanti già. Buona carica Giulio, ciao, ci sentiamo. Tonino, una bella passione quella, io mi divertivo molto e poi ho smesso perché ho avuto quella delusione lì, non ne ho più comprato. Cioè io dicevo avevo dal più piccolo al più grande. E li facevo volare dove c'era l'erba, se dove andavo solitamente, a Monserrato, dove c'è quel parco grande. E li facevo volare lì dove se cadevano, cadevano sull'erba, capito? Allora io scendevo, allora, al terzo pettine, all'ingresso al terzo pettine, prima di... No, non è il terzo pettine, sì, l'ingresso è il terzo pettine, poiché a fianco infatti poteva andare al centro commerciale di via di Sorso. Camminando per andare verso la spiaggia, però non ci arriva la spiaggia, sulla destra c'era una pista ed era tutto recintato e la domenica mattina facevo camminare le macchine della corsa, ma mille lì, toccavo anche i 100 lì, col motore, che bestiale. E mi ricordo che ha colpito, anzi era una che all'interno col passeggino, ha preso il passeggino, ha fatto una cosa puntata, che ogni divertimento. Risate voi, signora, tocca il passeggino, ma non è che non ce l'ho vestito da letto. Però bene macchinette, quelle cose non casino nessuno, penso. A me ci vuole la passione, poi dai, a me che cosa, con la slot in mano a fare, ma mi confonderei, un casino. Guarda, io ho visto sia quelle per soffettire, sia i punti, ho visto quelle, le gare di macchine da rally, sempre in miniatura, sempre di quelle modelli, si mettevano sulla torre e le comandavano dall'alto, ma tu devi vedere quante trombavano queste macchine, ma correva. Sì, sì, sì, cammino un bel fatto. Ma non mi ricordo se ci andava benzina o cosa ci andava, non me lo ricordo già. Alcol etilico. Pensa un po'. Sì, buttiamo un po' di fumo che c'è tachia, che era una cosa tremenda, poi il motore sentiva per lo 7 erano i brucchi, bestiale che. Sì, lo so, le facevano anche al quadrato un periodo, tanto tempo fa, mettevano le ruote dei camion, delle macchine tutte attorno, e uno biondo, me lo ricordo sempre, era bravissimo quel pilota lì, vinceva sempre quello lì, e praticamente mi ha detto che andava a 120 km orari lassù. Cammino già. A proposito, io sto pensando un'altra cosa invece, Gianni. Ah, quello che mi hai detto tu di sabato, Porto Torres. Cioè, sai quando si mette la corrida, ma l'hai investigata a me la coronavirus. E chi vi non vedete, ma tessimi. Sì, ma lì siamo all'aperto, tu. All'aperto un corno. Non ne so io, lì a Cappuccino, eravamo fuori, eravamo all'aperto lo stesso. Però con tanta gente che c'è, il virus cammina e vola. Non lo so, vedi tu. E io non ci ho passato male, 4 di fei. Già lo sai il dolore che avevo, poi neanche la bocca riusciva a aprire, ma che dai. Che ha preso quella ghiandola, l'ha preso, mamma mia. E magari scendo io, là non c'è problema, mi faccio un giro. Tanto fai sci, un po' carino. A me me l'ha ricordato Monica, lì, ieri. Ah, tu vuoi andare dove c'è occasione di gente, non ti ricordi più quando siete con Gianni a corrida, cosa ti ha fatto, lo vuoi ritornare a prendere, no? Ma adesso è calata la cosa, non è più come prima, tu mi... Sì, c'è poco da fare, io già, tutta gente senza mascherina, io continuo a mettere la mascherina quando entro nel supermercato e ovviamente non dà a prendere la gente, non me ne frega niente, io so cosa ho passato, cosa vuol dire, e quindi anch'io prima ero scettico, però raga, quindi no, voglio, mi voglio troppo bene, mi voglio. E vabbè, no problem, Tony. Oh yeah, porto per un quarto, 5 minuti e poi chiudo. E c'è, no, perché la roba è già pronta. E va bene. Così faccio mangiare anche ai cagnolini, che le do la carnuzzaga. Ma le patate non li vasene male, regà? No, io le do la carne, non le do patate. Le mangio io. Ah, però li fanno male, le patate, patate, cipolle, tutta questa roba qua li fa male ai cani. Ma lo so che io non ne vedo. Dice anche la pasta col sugo le fa male. Ma a me il veterinario mi ha detto, io gli ho chiesto se le faceva male, ascolti, se lui lo fa in crudo il sugo, senza soffritto, non li fa niente. Se li fa soffritto li fa male, quello sì. Però se li fa in crudo, come i bambini, non li fa nulla. Ma io sinceramente bevo sugo, pasta, quindi crocchette a nastro, tante qualità, quelle buone sempre, lo sempre, poi cosa gli do? A volte faccio il minestrone di verdure, te lo do in verde, dai, e non le mangio, allora niente, non ne do più. Carne, pollo, il pollo gli piace a me, però piglio quel pollo già cotto, tolgo tutta la pelle perché è salata. Solo la polpa bianca, piano piano, ma penso tutti gli ossigeni, le tolgo e loro vanno fatti. Una volta alla settimana gli do il pollo. E a volte qualche pezzettino me la c'è già anch'io, la verità, volendo. Oppure li prendo per me, però non per i cani. Le cosce speziate, che sono un po' piccantine, buone, sono già cotte. Quando mi capito le prendo quelli capito. Oppure mi piglio una bella salata di riso, oppure mi prendo i polpi, cambiate un bel. Perché le salate di riso pronta? Certo, tu vai a LD o MD, ma cacchio sia sui mercati. C'è anche le rospi, mi hanno detto, l'unica. Sì, c'è salata di riso pure. Ma non è asciutta? È un po', ma c'è una maschetta piccolissima, già. Ma con i rigori di vantami, non è che io se me la voglio fare me lo faccio io e compro proprio tutti i baratolini che c'è tutto il condimento per il salata di riso. E io lo voglio fare domenica. Adesso mi compro le cipolline sotto aceto, la giardiniera, un po' di funghi e le metto in mezzo. Metto le uova sode e faccio io un po' di maionese, perché io la mangio con un po', bel po' di maionese, tu lì non mi piace asciutta. Troppo grasso maionese, ho già, io l'hai vinto. Poi ci voglio olive, tonno, ma il tonno al naturale, perché quello con l'olio no, non fa male, perché sono conservanti eccetera, naturale di lusso. Quindi la maionese è molto grassa. Ma non ti credere, c'è olio di semi nella maionese, non dico di chi sia. C'è un po' di olio di semi, c'è limone. Non è grassa più di tanto, se non è che esageri, non devi esagerare, ecco. Però a me asciutto non mi piace. Posso. E con il riso intanto ne faccio prima io, quando viene Monica sempre cosa cucini stasera? Ho detto mi, non mi di riso a questo quando mi dico il riso, fuori di riso no, le palle piene, guarda. Ma lo sai questo cacchio di riso con i frutti di mare? Lo sto odiando. No, a me mi piace sempre, Tony. Ma quando lo mangi 3-4 volte alla settimana ti rompe le palle. Vabbè. No, io lo faccio ogni tanto, ma non sempre, dai, alterno. Ogni tanto, ma la domenica solo il primo lo faccio, non ne faccio mai gli altri giorni, non ne mangio il primo io. No, infatti. Allora, domenica scorsa mi sono preso una bella pizza margherita, doppia mozzarella, mi ha già fatto da pizzicotto. Mentre lì ho avuto una grigliata di verdure miste, e l'ho fatto fare a montagna. La verità, avevano poche persone per mandarcelo a casa, allora sono passato io le 9:30, però lo sto ritirando. Ho detto il cambio. Una volta mi ha invitato a mangiare la pizza e praticamente l'ho portato fino a casa, tu non ci credi, ha detto ma dov'è che dormi a questa pista? C'era il fondo che era carta vetina, ma per me è trasparente, chi vede da parte in parte, fino a fine, ferra e anche saporita, l'ha presa lì al chilometro, dove c'è il barca, si chiama, il giorno della pizzeria. Ha detto non ne prendere mai più, vabbè il pizzicotto di una signora pizza. Non c'era nulla, carta vetina, ma io non ho mai visto pizza così fine. Questa è la pizza buona dove la fanno sotto casa, la croccante si chiama la pizzeria. La fa buonissima, fa anche le pizzette al taglio che sono buonissime, non buone, no, ci mette un bel di mozzarella, così, buone. Guarda, io pizzerie ne ho conosciute poche buone, poche, una Valedoria, una Castelsardo Roccaia, poi e da Carlo a Macari e il pizzicotto, pizzicotto 1 che c'è a Ripulti oppure pizzicotto 2. Boh, a chi là che ci ho guardato, pa' carità, è meglio niente. Allora, vai alla Roccia ed è un bel buona la pizza. Vai a San Gavino ed è buona, Porto Torres, è un bel buona. Vai anche da Massimiliano Ciria ed è buona. Dipende dove vai. Io ne ho girato diverse pizzerie e la Roccia fa buonissima. Non so se sei mai andato, dopo la piazzetta c'è quella traversa sulla destra, entri dentro, vai in fondo e c'è la pizzeria, c'è una scala per salire, ma buonissime le pizze, a parte che ti fanno anche il dolce offerto dalla ditta, ti fanno l'antipasto e poi anche il dolce, ti fanno con la pasta della pizza, ti fanno, le mettono la Nutella eccetera eccetera, ti fanno un dolce buono. Ma guarda, io andavo spesso a Roccaia, che è cacciato in alto dopo i carabinieri, e ti posso dire che era il numero uno, però era troppo cara, alla fine abbiamo cambiato, e di lì abbiamo girato parecchio, non girato, poi l'ho fatta, oggi si pizzicotto, vado la ordine, me la portano fino a casa, oppure vado da Carlo, che è il carico amico mio, ancora a Baccali, mi ricordo che sono andato una volta con Monica lì, sto mangiando le pizze con la luce emergenza, sto caro, perché non mi si conviene niente? E guarda, sono andato sempre nel piatto, guarda, cazzo ci sono io, sono elettricista, fammi vedere, sono sceso giù e dopo il dolce sul fondo, ma che cosa sono passato, 2 minuti e tutto luce, e infatti Monica ha detto che lo sapevo che gli avessi aggiustato tutto, e ha detto già, fatti fare il piatto nuovo, momentaneamente hai troppo carico su salita differenziale, glielo diviso un po', hai dovuto un bel ventilatore che si raffredda un pochettino. Insomma, stava lavorando male, la verità, già, è rimasto contentissimo, fa davvero quel giorno la pizza, non me la fa neanche pagare, io vorrei pagare, no, assolutamente, mi ha fatto lavorare veramente bene, ero disperato, adesso non so, non sono più andato, ma penso che gli erano aggiustato l'impianto lì, che l'hanno fatto nuovo, che ci devono dare una ditta. Io lì sono andato una volta e ho aspettato troppo tempo per mangiare la pizza, beh, troppo niente. Si mangia bene, quello che vuoi. A Castelsardo sono andato a mangiare pesce, proprio roba di ristorante, ho mangiato bene ma abbiamo pagato una bacca di dinà. Quindi oggi ho fatto una grossa buraghice, dove sei andato tu su in punta, che rimane in salita, sono andato anch'io sulla destra salendo. E niente, io ho girato anche lì, un meglio ho girato, prima andavo sempre, quando ero sposato li abbiamo girato di posti lui, lui girava, veniva con me. Giustamente, se c'è un po' di gente vuol dire che si mangia bene, già lo sappiamo. E lo so, purtroppo, quando vai in questi posti, secondo cosa mangi, devi pagare. Io mi sono in marcia, diciamo, a altre pizzerie, Roccaia era cara. Infatti c'è d'accordo anche la mia compagna, se no non ci veniamo più. Sta sempre andando aumentando. Allora, due pizze, lì ha preso una mezzospiria, ci ha preso io l'acqua minerale e poi non so se era un dolcino, quasi 50 euro, ma stiamo scherzando, dai, che sono 7.000 vecchie di italiani, no, da quella volta li sono piantati. Andavamo lì poi a Valedoria, ci si mangiava bene una pizza fritta, era buona. Poi ha cambiato il gestore, insomma ne abbiamo girato già, 8.05, dai, che io ando e mangio. Ok, ci sentiamo già, grazie della questione. Se ci si è pintato è bene, c'è pazienza. E eventuale, a Sottone, Sottone. Ciao ciao. KK, dai, ciao Tony. Buona carica quando la fai, ci sentiamo, dai, buonasera. Ok, anche a te, ciao ciao. Ciao anche a tutti gli ascoltoni. E i tromboni, orecchioni. La scena dei cammini, la plasma.